Etimologia delle voci italiane. Troppo facilmente si persuasero uomini dotti che quasi tutte le voci italiane siano derivate dalla lingua latina o greca, nel che li credo io ingannati. Ci sono altre nazioni presso le quali si deve cercare e si trova l'origine di non pochi dei nostri vocaboli. Né migliore strada presero coloro che dedussero dalla provenzale non poche di esse voci, e di bei sogni propose il Giambullari con cercarne la miniera nella lingua aramea. Ma noi, molto meno di quel che si crede, abbiamo preso dal greco linguaggio, pochissimo dagli ebrei, e quei pochi vocaboli che dalla Provenza passarono in Italia furono bensì usati da qualche scrittore, ma non già adottati dal popolo. Il perché sono io di parere che più diligentemente di quel che finora si è fatto s'abbiano a scrutinare le lingue settentrionali, anzi fino all'arabica, per trovare la vera origine di assaissime nostre voci che nazioni tali indussero nella nostra lingua o perché in Italia a lungo tempo signoreggiarono o col mezzo del commercio e della mercatura si familiarizzarono con gli italiani. Lodovico Antonio Muratori.